Davvero storico! Anzi, due! Oltre 50 cantanti italiane per un concerto irripetibile. 12 radio nazionali per la prima volta insieme in diretta a reti unificate. Radio Amiche per l'Abruzzo. Con Laura Pausini, Elisa, Gianna Nannini, Fiorella Mannoia, Giorgia e tante altre amiche. Per aiutare la ricostruzione in Abruzzo. Per i vostri contributi e tutte le info, amicheperlabruzzo.it. Domenica 21 giugno, Stadio San Siro, Milano. E dalle 19.30 in esclusiva su tutte le radio nazionali. Radio Amiche per l'Abruzzo. Con il patrocinio del Ministero dell'Istruzione e di Pubblicità Progresso.